Oggi siamo in compagnia di Pier Sandro Pallavicini, autore di Romanzo per signora, pubblicato da Feltrinelli. Avevamo già parlato qualche anno fa di Pallavicini a proposito di African Inferno, un altro romanzo sempre pubblicato da Feltrinelli. In questo nuovo romanzo, che diverte e che commuove nello stesso tempo, i protagonisti sono cinque anziani italiani che decidono di andare a fare una vacanza a Nizza. E qui succedono avventure e disavventure, ma c'è anche un mistero. Allora, Pier Sandro, andiamo un po' per ordine. Diciamo che il personaggio un po' principale sembra essere Cesare, che è un uomo malato, però insomma non emerge con fatica questa sua malattia. Sei sempre un po' ironico nella descrizione dei tuoi personaggi. Ci racconti innanzitutto chi è Cesare? Cesare Corsico Piccolini, nome e cognome tipicamente vigevanese, è un anziano signore vigevanese, un 73enne, ora in pensione, che nella sua vita lavorativa ha fatto l'editor, si direbbe oggi, come lo dice lui, che è un signore ad altri tempi, il direttore di collana, il direttore editoriale, in una grande casa editrice italiana che potrebbe essere una specie di ibrido tra Bompiani, Feltrinelli, Einaudi, quel tipo di casa editrice. E quindi è una persona che ha avuto una vita lavorativa molto ricca di soddisfazioni, ha conosciuto grandi scrittori, autori di bestseller, presidenti di repubbliche, premi Nobel, insomma una persona di grande cultura, che è stata poi accantonata negli ultimi anni perché non era più in grado di trovare quei bestseller di cui aveva bisogno la casa editrice. E quest'uomo ha un rammarico e una spina nel fianco, che anzi due. Una è la malattia, soffre di sclerosi multipla primitivamente progressiva, che è una malattia che esiste davvero, e uno dei problemi che causa sono forti spasmi muscolari, perdita di memoria. E l'altra spina nel fianco è un'amicizia perduta. L'amicizia perduta è quella con uno dei suoi autori, anzi il suo autore, colui che nel 1980 lui curò come primo autore del suo lavoro di editor, Leo Meyer, che divenne un grande successo editoriale, ma anche il suo grande amico della vita. E durante questa vacanza a Nizza, Cesare crede di vedere, insomma, Leo in una casa di cura, prima per strada e poi in una casa di cura. E qui inizia tutto un mistero su questo Leo, su che fine ha fatto questo scrittore, che era appunto famosissimo negli anni Ottanta. Sì, il mistero è intanto che cosa fa lì davvero Leo. È in una casa di cura di cui si dicono cose un po' losche, una casa di cura dove forse si pratica la dolce morte, l'eutanasia, almeno di questo è sospettato il direttore della casa di cura. E l'altro mistero è anche perché è finita questa amicizia, che è qualcosa che a Cesare tutto sommato non è ancora chiarissimo. Leo era sparito dalla circolazione, sparito dalla vita di Cesare 10 anni prima degli eventi, che sono i nostri anni, il 2010 e il 2011, e da alcuni anni anche sparito dalla vita editoriale, dalla vita culturale che l'aveva sempre visto protagonista. E una buona parte della trama del romanzo è proprio la ricostruzione di questo mistero, che ci tengo a dire non è di impianto giallistico, non si tratta di un giallo, non si tratta di un noir, è un romanzo dove c'è qualche cosa che va svelato. Sì, è piacevole infatti leggerlo pagina dopo pagina, perché appunto dicevi non è un giallo, però insomma viene una certa curiosità sapere che fine ha fatto Leo, perché si è eclissato per così tanti anni. Prima dicevamo appunto che Cesare è malato, e infatti Cesare per la sua malattia fuma hashish e marijuana, insomma praticamente si fa le canne. E questa cosa è vissuta anche in maniera un po' ironica, tu quando lo descrivi, insomma il figlio gli procura la cosiddetta roba, insomma. Gli procura le sigarettine medicali, come dice lui. Beh, insomma, questo è un romanzo che vuole anche far ridere, e allora ho preso da tutte le fonti possibili le occasioni per gag e battute, e allora questa cosa dell'hashish, o per meglio dire del cannabinolo, mi pareva formidabile, perché davvero il cannabinolo è usato in molte malattie di tipo neurologico per curare i sintomi, e per quel che ne so in Italia non è reso disponibile sotto forma di farmaco, in altri paesi europei sì, Allora era molto divertente, io credo, il vedere un signore anziano che non ha nemmeno mai fumato una sigaretta, che intorno ai 70-75 anni deve iniziare a fumare delle canne che gli fanno bene non solo per i sintomi, ma insomma anche per l'umore, diciamo così. Infatti il problema è serissimo appunto per le persone che devono fumare hashish o marijuana per malattie, però tu l'hai trattato in modo leggero. Così come hai trattato in modo divertente un po' le avventure e le disavventure di questi cinque anziani, perché oltre a Cesare c'è la moglie con la quale lui ha un rapporto insomma stranissimo, sono due persone completamente diverse, poi c'è un'altra coppia di amici e poi c'è anche un vedovo. Che tipo di relazioni si creano fra questi cinque? Beh, il vedovo è l'Attilio, il Persegati, o l'Enzo con l'Alzheimer, vista la somiglianza con un Enzo Iannacci molto anziano e molto smemorato. E, Lenzo con l'Alzheimer, insomma, è la persona che porta tutti quanti a Nizza in vacanze, nel senso che vedovo da poche settimane, è stato un colpo tremendo per lui e le due coppie di amici vogliono portarlo a fare una vacanza per risollevarsi. La loro amicizia sin lì è in realtà un'amicizia abbastanza formale che dura da anni, ma che è basata soprattutto sulla frequentazione di un Rotary Club, che dà anche un po' il senso e la misura di che personaggi siano. Ecco, diciamo, chiariamo che sono persone dell'alta borghesia, sono assolutamente benestanti, quindi possono permettersi materialmente quello che vogliono. Esattamente, sono persone dell'alta borghesia della provincia, come dicevo poco fa vengono da Vigevano e sono un po' quei rappresentanti della creme sociale ed economica della città che spesso si trovano, no, nei Rotary Club di provincia. E la loro amicizia sin lì era appunto basata su cene nel loro club, uscite comuni il sabato sera, qualche visita ai musei dei dintorni della Lombardia o magari una gita a Chiasso, tanto per stare, no, nella leggenda arbasiniana, e qualche vacanza comune. E in questa invece vacanza a Nizza succedono delle cose ai loro rapporti. Infatti c'è anche un segreto del Persegati, del vedovo, che non diciamo, che insomma io quando l'ho letto mi ha divertito molto. Insomma, dovete leggerlo, Romanzo per signora, per scoprire di che si tratta. A proposito di questo titolo, Romanzo per signora, tu nei ringraziamenti ringrazi tua figlia perché in qualche modo ti ha sostenuto nel voler mantenere questo titolo. Insomma, c'era qualcuno che non voleva chiamarlo Romanzo per signora. Sì, intanto devo dire che mia figlia è una lettrice fortissima, una grande esperta di libri e ha 8 anni, insomma, questo va specificato. E, sì, ha molto insistito perché il titolo le piaceva molto e le sembrava felice e alla fine sono stato d'accordo con lei. È un titolo che, devo dire, preesisteva al romanzo. Io ho voluto scrivere un romanzo che si intitolasse così, all'inizio molto ruffianamente, per dire voglio attirare il pubblico che compra tipicamente i libri, le signore, quindi cosa meglio di un titolo come Romanzo per signora. Poi il romanzo ha preso una strada diversa, insomma non è un romanzo rosa, un romanzo per signora come lo intendono i librai che ci fanno, no, gli scaffali. Insomma, lo possono leggere anche gli uomini, diciamo la verità. Lo possono leggere anche gli uomini, ma ad un certo punto della sua preesistenza in carta stampata si intitolava Sono stato un uomo buono, che a me piaceva molto, sembrava un titolo alquanto poetico e sensato, anche che rifletteva la personalità dell'io narrante di Cesare. Ma mia figlia mi ha detto: no, ma assolutamente no, papà, che cosa dici? Questo si deve chiamare Romanzo per signore e ti faccio io la copertina. La copertina poi non l'abbiamo usata, ma il titolo è rimasto. La copertina, quella vera, insomma, tra l'altro è molto bella, mi ha ricordato il film Le particelle elementari, perché si vedono queste sedie sdraio, insomma, tutte allineate, e si immagina che ci siano questi personaggi anziani seduti sopra. Un'ultima domanda, questo libro è pieno, insomma, ci sono molte anche citazioni letterarie, perché abbiamo visto che Cesare fa parte del mondo dell'editoria, quindi in qualche modo è un mondo a te congeniale, oltre al fatto di essere appunto uno scrittore. È un mondo che mi è familiare e prima di tutto come lettore, poi naturalmente anche come scrittore, e qui la campata temporale che viene considerata è quella che parte dagli anni 80 e arriva fino a noi. E devo dire che questo è anche un po' un piccolo trucco che ho usato per infondere nel libro una cosa a cui tenevo molto, la felicità di scrittura. Allora ho voluto parlare di cose che mi piacciono tanto, e qui l'escamotage era facile, essendo Cesare un direttore editoriale, l'editoria e i libri li conosce benissimo, quindi ho voluto parlare dei libri che ho molto amato io, di riflesso li ama anche Cesare, per rendere la felicità di scrittura che volevo si trasferisse al lettore in forma di felicità di lettura, e credo che abbia funzionato.